Piazza dell'Esquilino ed è arrivato il corteo in questo momento, giusto? No, in realtà il corteo è ancora a Via Merulana, insomma sta per arrivare a Piazza Santa Maria Maggiore, poi girerà intorno alla chiesa e arriverà a Piazza dell'Esquilino, quindi la testa del corteo adesso si trova di fronte alla Basilica di Santa Maria Maggiore. E mentre a Piazza dell'Esquilino c'è il presidio che è cominciato oggi pomeriggio dalle 15, convocato dal Comitato Immigrati in Italia, che ha trascorso ovviamente il pomeriggio sotto la pioggia in quella piazza. Ci sono stati diversi interventi al microfono che si sono alternati, insomma rilanciando un po' tutte le questioni, le vertenze che erano al centro di questa giornata, e stanno aspettando appunto che arrivi il corteo, perché devo ammettere che insomma Piazza dell'Esquilino era abbastanza deserta, c'erano veramente pochissime persone, un po' per la pioggia battente, un po' suppongo anche per difficoltà organizzative, insomma, visto che comunque non era stato molto comunicato e molto sentito questo appuntamento all'interno della città. Invece più partecipato è il corteo che si sta avvicinando, che è stato convocato insomma in seguito a un'assemblea pubblica che si è svolta la settimana scorsa alla Sapienza, da una serie di realtà tra cui appunto soprattutto gli studenti universitari, ovviamente gli studenti e le studentesse, e poi strutture come ActionX, Strike e altre. E lo striscione, insomma il corteo si apre con uno striscione d'apertura che dice Rosarno, Brescia, Tunisi, Cairo, Tripoli, Roma, indisponibile al ricatto, join the revolution. E dietro lo striscione insomma ci sono tantissime persone di diversi paesi, e la musica insomma in questo momento è molto forte, quindi non so se riuscite a sentirmi, è insomma diciamo un corteo comunque più, insomma, almeno più vivace, più comunicativo. Anche qui stanno alternando diversi interventi ai microfoni che denunciano insomma come a Piazza Estudino le condizioni di vita e di sfruttamento dei migranti oggi in Italia, e chiedono ovviamente la regolarizzazione, il permesso di soggiorno per tutti e tutte, e insomma con uno sguardo sempre a quello che sta succedendo dall'altra parte del Mediterraneo, in particolare insomma la situazione ovviamente della Tunisia e della Libia. Anche a Sesquilino per esempio si ricordava che insomma tra i libici arrivati a Roma, insomma qui in Italia nelle ultime settimane, pare che già oggi fosse in programma una prima deportazione di massa di libici dall'aeroporto di Fiumicino, quindi si denunciava questo fatto che ovviamente tutti coloro che arrivano qui pensando di trovare accoglienza, asilo e insomma diritti, in realtà trovano soltanto porte in faccia e deportazioni di massa, e oppure insomma la condanna a una vita da clandestini. E insomma un po' queste sono le voci che si susseguono ai microfoni, che chiedono, che denunciano la sanatoria truffa, insomma l'insufficienza dei decreti flussi, le condizioni inaccettabili di vita e di lavoro per uomini e donne migranti che arrivano qui in Italia, e poi insomma spesso si conclude con questo continuo rilanciare allo sciopero generale e alla cacciata di Berlusconi, come se questa dovesse essere un po' la soluzione a tutti i problemi, insomma. A noi non basterà questo.